Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Tony salì la scala del secondo piano. Poi premette piano la maniglia della porta di fronte ed entrò. «Buonasera, Ida, anima cara», disse la signora per Maneder. «Tony, ancora qui a quest'ora?» «Sì, sono stata da mio fratello». «Dorme?» domandò indicando col mento il lettino alla parete di sinistra, con la testata coperta da una tendina verde, presso la porta che dava nella camera del senatore Buddenbrock e della sua consorte. «Ssss!» fece Ida. «Sì, dorme!» E la signora Permaneder si avvicinò al lettino in punta di piedi, aprì cautamente le tendine e si chinò a guardare il faccino del nipote addormentato. «Sogna», osservò la signora Permaneder commossa. Poi si chinò sul bambino. Lo baciò cautamente sulla guancia calda di sonno, riassestò le tendine e ritornò da Ida. «Va a scuola volentieri?» «Tutt'altro, Tony. Avrebbe preferito continuare a studiare con me. E anch'io l'avrei desiderato, cara figliuola, perché i maestri non lo conoscono come me fin da quando era piccino e non sanno come si deve prenderlo. Spesso gli riesce difficile stare attento e si stanca rapidamente. Oh, poverino, l'hanno picchiato? Oh, no, no, non vorranno mica essere così cattivi. Quando il piccolo mi guarda. E com'è andata quando si presentò a scuola la prima volta? Ha pianto? E come? Piange tanto facilmente. Non forte, ma così, fra sé. E poi voleva trattenere tuo fratello per la giacca e implorava che non andasse via. Non compì neanche il gesto della mano e si volse spaventata verso il lettino, donde era venuto un grido che aveva interrotto la sua chiacchierata. Un grido di angoscia che, dopo un istante, si ripeté con un'espressione ancor più tormentata, ancor più atterrita, e risuonò poi rapidamente 3, 4, 5 volte, come una protesta disperata e indignata, un urlo d'orrore di fronte a qualche cosa di raccapricciante che accadeva o s'era mostrato. Nello stesso momento il piccolo Hanno si rizzò sul letto e, balbettando parole incomprensibili, spalancò gli occhi. Quegli occhi così singolarmente bruno dorati, ma senza afferrare la realtà delle cose, come fissando un mondo del tutto diverso. «Non è niente», assicurò Ida. «È il pavor. Certe volte è molto peggio». E con tutta la calma depose il lavoro, andò da Hanno con quei suoi lunghi passi pesanti e, parlandogli con voce bassa e tranquillante, lo rimise sotto la coperta. «Hai detto il pavor?» ripeté la signora Permaneder. «Adesso è sveglio». Hanno però non era affatto sveglio, benché i suoi occhi spalancati e fissi continuassero a muoversi, come pure le labbra. «Come? Via, via! Adesso smettiamo di chiacchierare. Che cosa dici?» domandò Ida. Anche la signora si avvicinò per ascoltare quell'inquieto mormorio e balbettio. «Scendo nel giardinetto», diceva Hanno a stento, «ad annaffiare i fiori. Recita le sue poesie», spiegò Ida scuotendo il capo. «Va bene, va bene. Adesso basta. Adesso, piccolo mio, dobbiamo dormire. Arriva l'uomo coppo. Si mette a starnutire», continuò Hanno sospirando. Mandò un profondo singhiozzo. Le lacrime gli sbucarono dagli occhi e scorsero lentamente giù per le guance. E così si svegliò. Abbracciò Ida, si guardò in giro con gli occhi umidi, mormorò soddisfatto il nome della zia Tony, si rimise a posto e riprese a dormire tranquillamente. «Strano», fece la signora Permaneder quando Ida si risedette al lavoro. «Che poesie erano?» «Poesie del suo libro di lettura», rispose la signorina Youngman. «Sono strane cose. Il bambino ha dovuto impararle in questi giorni e dell'omino Gobbo ha fatto un gran discorrere. Ma Che cosa vi è di doloroso in quella poesia? Che ne so io, quando la recita non riesce mai a passare oltre l'inizio. La signora rise commossa, ma poi fece la faccia seria. Ti dirò, Ida, non è un bene, non mi pare una buona cosa che tutto lo commuova tanto. Il bambino, mi par di aver capito, tende a considerare tutte le cose con troppa penetrazione e a prendersi troppo a cuore ogni cosa. E ciò lo deve consumare, credi a me. Bisognerebbe parlarne seriamente con Grabov. Ma questo è il punto. Grabov diventa vecchio. Vedi, le inquietudini di Hanno, questo suo agitarsi la notte, queste crisi di angoscia nel sonno, Grabov lo sa, e tutto il suo intervento si limita a dirci di che cosa si tratta, a pronunciare un nome latino, Pavor Nocturnus. Sì, santo cielo, è molto istruttivo, però ecco, è una cara persona, un buon amico di famiglia, tutto quello che vuoi, ma non è certo un luminare. Buonanotte, Ida. Sono persuasa che esistano medici di ben altro valore. Thomas Budenbrock, a 42 anni, era un uomo esausto. Con un profondo sospiro si passò lentamente una mano sulla fronte e sugli occhi, accese macchinalmente un'altra sigaretta, pur sapendo che gli faceva male, e attraverso il fumo continuò a guardare nel buio. Non che in città egli fosse meno che una volta una personalità importante e indispensabile. Era ricco, e nessuna perdita subita, nemmeno quella grave del 66, aveva potuto scuotere la solidità della ditta. Ma benché, come era naturale, egli continuasse il suo adeguato tenore di vita e componesse i suoi pranzi di tante portate quanti gli ospiti si aspettavano da lui, aveva l'impressione che la sua fortuna e i suoi successi fossero terminati. Quest'impressione era una verità interiore più di quanto fosse basata su fatti esterni, e l'aveva portato a un tale grado di sfiducia e diffidenza che, come non mai, s'era messo a lesinare il denaro e a fare, nella vita privata, economie quasi meschine. Mille volte maledisse la costosa costruzione della nuova casa che, secondo lui, non gli aveva portato altro che disgrazie. I viaggi estivi furono aboliti e il giardinetto di città dovette sostituire la villeggiatura al mare o in montagna. Per suo ordine severo e ripetuto, i pranzi che prendeva insieme a sua moglie e al piccolo Hanno erano di una semplicità addirittura comica in confronto alla vasta sala da pranzo dal pavimento lucido, dal soffitto lussuoso e dai magnifici mobili di rovere. Queste misure corrispondevano al ritmo fiacco che avevano assunto gli affari. Non si sentiva più quello spirito nuovo e fresco con cui il giovane Thomas Budenbrock aveva animato l'azienda. E il signor Marcus, il socio che, partecipando con un piccolo capitale, non aveva mai avuto grande influenza, era per natura e temperamento alieno da qualsiasi iniziativa. Improvvisamente sentì che il sangue gli montava alla testa sentì che arrossiva un ricordo. Si vedeva passeggiare con suo fratello Christian nel giardino della Mengstrasse, impegnato in un litigio, in una di quelle loro discussioni violente e così incresciose. Christian, con quel suo modo indiscreto e compromettente, aveva fatto davanti a molte persone una dichiarazione riprovevole della quale lui, indignato, furente e seccatissimo, gli aveva chiesto conto. «Veramente», aveva detto Christian, «in fondo ogni uomo d'affari è un imbroglione». Come? Quella frase insulsa e indegna era proprio tanto lontana da quella che egli stesso si era permesso di pronunciare poco prima davanti a sua sorella. Egli se n'era sdegnato, aveva protestato con calore, ma come aveva ribattuto quella furba di Tony? «Ci si agita!» «No!» esclamò d'un tratto a voce alta e, levando la testa di scatto, lasciò andare la maniglia della finestra, si strappò di là quasi con forza e disse: «È la fine!» Poi si raschiò la gola per superare la sensazione sgradevole che gli aveva causato la propria voce solitaria. Si volse e, a testa bassa, con le mani dietro la schiena, si mise a passeggiare per tutte le stanze. «È finita!» ripeté. «Bisogna farla finita. Io mi impaludo, mi perdo, divento più sciocco di Christian». Oh, era felice di essere consapevole della sua situazione. Stava in lui di correggersi, con la violenza. Vediamo, vediamo un po'. Com'era l'offerta che gli avevano fatto? Il raccolto di pepperrade in erba. «Sì, lo farò», disse con un bisbiglio appassionato e persino scuotendo una mano con l'indice teso. «Lo farò». Era ben quello che si chiama un bel colpo. Un'occasione di raddoppiare, esagerando magari un pochino, un capitale di, diciamo, 40.000 marchi. Sì, era un segno del destino, un invito a sollevarsi. Si trattava di un inizio, di un primo colpo, e il rischio che vi era collegato non era che una nuova confutazione di tutti gli scrupoli morali. Se il colpo riusciva, egli si sarebbe rimesso in gambe. Avrebbe osato ancora, avrebbe riacciuffato la fortuna e la potenza con quelle elastiche grappe interiori. Thank you. fosse disattenzione o intenzione da parte del senatore, poco mancò che egli trascurasse un fatto che la signora Permaneder, quella che si dedicava col più fedele attaccamento ai documenti di famiglia, annunciò solennemente a tutti. Il fatto che il 7 luglio 1768 era considerato nei documenti come giorno di fondazione della ditta e che il centenario era imminente. Parve quasi che Thomas rimanesse male quando Tony gli diede questa notizia con voce commossa. Disse impacciato e seccato: «Oh, mia cara, vorrei che potessimo passar sopra a questa data». «Passarci sopra, Tom? Impossibile! Non c'è neanche da pensarci. Credi che si possa nascondere questo fatto? Credi che la città possa ignorare l'importanza di un simile giorno?» «Ma non dico che sia possibile. Dico che preferirei passare sotto silenzio la giornata. Festeggiare il passato è una bella cosa quando non si è preoccupati per il presente e per l'avvenire. Ricordarsi dei propri antenati è piacevole quando si sa di essere d'accordo con loro e si ha la coscienza di aver agito secondo le loro vedute. Se il giubileo cadesse in un momento più opportuno, per farla breve, ho poca voglia di feste». Ma aveva ragione lei. Non si poteva passare quel giorno sotto silenzio. Poco tempo dopo comparve nel giornale locale un preannuncio che prometteva un esauriente articolo sulla storia dell'antica e autorevole casa commerciale per il giorno dei festeggiamenti. E non ce ne sarebbe stato neppur bisogno per richiamare l'attenzione degli onorevoli commercianti. Quel giorno il senatore non si mise la giubba d'ufficio, ma indossò subito una giacchetta nera aperta che lasciava vedere il panciotto di picche bianco. Portava i calzoni chiari. Si aspettavano visite fin dalla mattina. Egli si diede l'ultima occhiata nello specchio, passò ancora una volta le punte dei baffi nelle schiacce e con un breve sospiro s'avviò. Il turbine incominciava. Fosse passata presto la giornata. Quando entrò nella sala da pranzo, Gerda gli andò incontro con vivacità. Anch'essa era già in abito da ricevimento. La signora Budenbrock, Christian, Clotilde, Ida Jungmann, la signora Permaneder e Hanno erano nel salotto e i due ultimi reggevano, non senza sforzo, il dono della famiglia, una grande tavola commemorativa. La vecchia signora abbracciò il figlio maggiore con profonda commozione. «Caro figliuolo, questa è una bella giornata. Una bella giornata», ripeté. «Non dobbiamo cessare mai di ringraziare Dio col cuore per tutte le grazie, per tutte le grazie», e piangeva. A quell'abbraccio il senatore provò un momento di debolezza. Era come se nel suo cuore qualcosa si staccasse e lo abbandonasse. Le sue labbra tremavano. Si sentì prendere dal bisogno di rimanere a occhi chiusi fra le braccia della madre, sul suo petto, in quell'onda delicata di profumo che emanava dalla seta morbida dell'abito, di non vedere più nulla, di non dover più parlare. La baciò e si rizzò per porgere la mano a suo fratello che gliela strinse, tra imbarazzato e distratto, con quell'espressione che aveva sempre alle cerimonie. Clotilde disse qualche parola cortese stirando le vocali. La Jungmann si limitò a fare un inchino profondissimo, giocherellando con la catenina d'argento che le pendeva sul seno piatto. Egli sorrise e Tony lo ricondusse nella stanza vicino alla tavola. «E qui, Tom, ci sono i telegrammi. Soltanto i primi, ben inteso, quelli personali, della famiglia. Quelli dei colleghi commerciali vengono recapitati in ufficio». Aprirono un paio di dispacci, dei parenti di Amburgo, di quelli di Francoforte, del signor Arnoldsen e dei suoi da Amsterdam, di Jürgen Kröger da Wismar. A un certo punto la signora Permaneter arrossì. «A modo suo è però un buon uomo», disse porgendo a suo fratello un telegramma aperto. Era firmato Permaneter. «Però il tempo passa», disse il senatore facendo scattare il coperchio dell'orologio. «Vorrei prendere il mio tè. Mi fate compagnia? Più tardi la casa sarà come una piccionaia». Sua moglie, alla quale Ida aveva fatto un segno, lo trattenne. «Un momento, Thomas. Tu sai che Hanno deve andare subito a lezione. Prima vorrebbe recitarti una poesia. Hanno, vieni qua. E ora fa finta che non ci sia nessuno. Non agitarti. Il piccolo stava appoggiato al pianoforte nel suo vestitino alla marinara con largo colletto di tela, con la scollatura bianca e il grosso nodo da marinaio che gli sbucava dal colletto, le gambe sottili incrociate, la testa un po' reclinata in un atteggiamento di grazia timida e inconsapevole. Due o tre settimane prima gli avevano tagliato i capelli lunghi perché a scuola non solo i compagni, ma anche i maestri avevano incominciato a prenderlo in giro. Ma i capelli erano ancora folti e riccioluti e gli crescevano fin sulle tempie e sulla fronte delicata. Egli teneva le labbra un po' contratte e le palpebre abbassate, di modo che le lunghe ciglia brune si disegnavano sull'ombreggiatura azzurrina degli occhi. Sapeva già dove sarebbe andato a finire. Avrebbe pianto. Per le lacrime non avrebbe potuto giungere alla fine della poesia. Avrebbe pianto come accadeva sempre quando pretendevano che si mostrasse in pubblico, quando lo interrogavano, quando si mettevano alla prova, come piaceva al babbo, le sue capacità e la sua presenza di spirito. Almeno la mamma non gli avesse raccomandato di non agitarsi. «Dunque, figliolo, sentiamo», disse brevemente il senatore. Si era seduto presso la tavola e aspettava. Non sorrideva affatto, come non sorrideva mai in simili occasioni. Hanno si rizzò, passò una mano sul legno lucido del pianoforte, girò un'occhiata timida sui presenti e, un po' incoraggiato dalla bontà che vedeva brillare negli occhi della nonna e della zia Toni, disse con voce smorzata, quasi dura, «La domenica del pastore, di Uland». «No, no, mio caro, non così!» esclamò il senatore. «Non si sta così appiccicati al pianoforte con le mani sulla pancia. Ritto, senza appoggio, e si parla liberamente. Questa è la prima cosa. Alta la testa e le braccia abbandonate tranquillamente». Hanno si mise sulla soglia della stanza di soggiorno e allungò le braccia lungo il corpo. Obbediente alzò la testa, ma tenne le palpebre così abbassate che non gli si vedevano gli occhi. Probabilmente erano già pieni di lacrime. «Questo è il giorno del Signore», incominciò pianissimo, ma fu interrotto dalla voce energica del babbo. «Ogni recita deve essere preceduta da un inchino, e poi bisogna alzare la voce, da capo per piacere. La domenica del pastore!» Era una cosa crudele, e il senatore sapeva bene che in tal modo toglieva al bambino l'ultimo residuo di fermezza e di resistenza. Ma il ragazzo doveva precisamente non lasciarselo togliere. Non doveva lasciarsi sconcertare. Doveva acquistare il tono fermo e virile. «La domenica del pastore!» ripeté inesorabile e incoraggiante. Ma Hanno era finito. Teneva il mento sul petto e la sua piccola destra, che sbucava pallida e con le vene azzurrine dalla manica della marinara molto stretta, turchina, ornata di un'ancora ricamata, si aggrappava convulsa al broccato della portiera. «Sono solo qui nei campi», riuscì ancora a dire, ma poi fu finita. L'intonazione del verso lo travolse. Un'immensa pietà di se stesso gli troncò la voce e gli spremette irresistibilmente le lacrime. «Bel divertimento!» disse il senatore con durezza e alzandosi irritato. «Che c'è da piangere? Verrebbe da piangere al pensiero che persino in un giorno come questo non sai trovare l'energia necessaria per darmi una gioia. Sei forse una bambina? Se continui così, che cosa diventerai? Hai forse intenzione di scioglierti in lacrime quando dovrai parlare con la gente?» «Mai», pensava Anno disperato, «mai parlerò con la gente». «Ripensaci fino al pomeriggio», concluse il senatore. E mentre Ida Jungmann, inginocchiatasi presso l'alunno, gli asciugava gli occhi e cercava di consolarlo fra rimproveri ed effusioni di tenerezza, si ritirò nella sala da pranzo. Elsa Agalbato ha letto I Buddenbrock di Thomas Mann, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @chiocciolarai.it.